as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, siamo di nuovo qui al Pane e Rose, una puntata che volevo fare da un po', ce n'è anche un'altra, non lo dico nemmeno perché ormai, se no altrimenti porto sfiga. Sono dei contratti belli che si stanno firmando a Bologna, delle aziende metalmeccaniche, di questi accordi che veramente stanno facendo la storia della contrattazione nel territorio, ma anche in Italia, c'è quello da Ducati Moto. Ne ho approfittato durante il direttivo regionale, ho incontrato Mario Garagnani, che è il funzionario che segue la Ducati Moto, e con lui abbiamo parlato di questo contratto interno che io, insomma, sono riuscito a leggere, è stato votato dalla stragrande maggioranza dei lavoratori. Diamo subito a lui la parola, prima però un pezzo bellissimo, Come on Tigre, stupendo questo pezzo, e poi troverete comunque le indicazioni maggiori sulla pagina podcast, dove troverete i pezzi musicali che mettiamo in radio. Ok, a dopo, ci sentiremo con Mario Garagnani e parleremo del contratto Ducati. Ciao Mario, siamo qui al direttivo regionale E siamo qui con Mario Caragnani, che ci sta ascoltando, della segreteria della FIOM di Bologna. E oggi con te voglio parlare dell'accordo Ducati. È stato uno degli accordi più importanti fatti nel territorio, diciamo insieme all'accordo Toyota, l'accordo Lamborghini, l'accordo Ducati. Io penso che sia veramente uno spartiacque in questo momento. La domanda che ti faccio, no? Quali sono i contenuti principali? E soprattutto, cosa intendi per un piano straordinario di investimenti? Allora, i punti essenziali dell'accordo sono proprio come dicevi te. Noi l'abbiamo messo nel titolo anche dei comunicati, uno straordinario piano di investimenti che sfiora i 600 milioni di euro in 5 anni. Questo è sicuramente uno degli elementi essenziali, perché una realtà industriale che in queste fasi, diciamo, di trasformazione non investe sia sul prodotto che sulle infrastrutture che formazione dei propri dipendenti, dei propri lavoratrici e lavoratori, rischia di essere cacciata fuori dalla dinamica industriale. Quindi il piano di investimenti straordinario, assunzioni collegato, più di 300 assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici e lavoratori, di cui 200 in produzione, quindi importante in questa logica anche l'aumento delle lavoratrici e dei lavoratori in produzione, perché Ducati ha stabilimenti in giro per il mondo, quindi è importante che lo stabilimento di Borgo Panigale mantenga la sua centralità non solo su ricerca e sviluppo, non solo sulla parte amministrativa, ma anche sulla parte produttiva. E poi chiaramente il tema del bilanciamento del tempo di lavoro, il tempo di vita delle persone, quindi alcuni elementi innovativi sui permessi di visite mediche, permessi per accompagnare i familiari, una tutela, diciamo, un sostegno alla genitorialità, ma anche il tema dello smart working, questi elementi che, diciamo, che devono essere un miglioramento costante delle condizioni dei lavoratori. E poi chiaramente la parte economica abbiamo insistito, ne parlavamo anche oggi qui al direttivo regionale, sul tema del salario strutturale consolidato. Noi avevamo un premio preferiale che era di 1.300 euro, l'abbiamo portato a 2.000 euro, abbiamo creato una sorta di 14ª mensilità sociale, però, perché è uguale per tutti. I 2.000 euro sono sia per il settimo livello che per il terzo livello, e quindi abbiamo provato a fare ridistribuzione, abbiamo aumentato il premio di risultato, abbiamo aumentato alcune indennità di turno. Ecco, questo insieme al tema degli appalti e gli infrastrutture e gli investimenti e le assunzioni sono i punti essenziali dell'accordo. Allora, come si colloca Ducati all'interno di un gruppo, quello Volkswagen, che sta attraversando un momento di difficoltà? Tutti i giornali vediamo che il settore dell'automotive è davvero in difficoltà. Ducati, la domanda che io, infatti te l'ho detto all'inizio, pensavo che sarebbe stata molto più difficile questa trattativa, e non pensavo sinceramente, visto i buoni risultati che avevo ottenuto con questo contratto, di ottenere tutte queste cose di cui hai elencato, visto che comunque stiamo parlando comunque di Volkswagen e di un settore dell'automotive che è in crisi. Sì, è vero, hai ragione. Volkswagen, come tutto il settore dell'automotive, sta attraversando un momento di grande difficoltà per l'avvento, diciamo, di nuovi produttori anche dalla Cina e dagli Stati Uniti sull'auto elettrica e quant'altro, e sta applicando una cosa che un progetto che si chiama Performance Program, che prevede, diciamo, la necessità di un grande investimento di 180 miliardi di euro. Bene, in Ducati la forza che abbiamo avuto insieme all'RSU è quella di dire per finanziare questo progetto di investimento di Volkswagen non dobbiamo puntare all'austerità, cioè alla riduzione dei costi, cioè alla riduzione dei salari, o a tirare il collo agli appalti, ai fornitori. Dobbiamo puntare ad aumentare, diciamo, la possibilità di vendite, quindi allargare a nuovi mercati e aumentare la qualità del prodotto, e quindi aumentare il numero di moto prodotte. Cioè, il progetto che abbiamo sostenuto e che abbiamo messo nell'accordo prevede un aumento da 60.000 moto prodotte a livello mondiale fino a 80-85.000 moto nei prossimi 5 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo spinto anche diciamo facendo una discussione complicata sugli assetti industriali, cosa si produce in Italia, cosa si produce in Thailandia, cosa si produce in Brasile, perché abbiamo puntato all'aumentare del fatturato, quindi l'aumentare del numero di dipendenti, l'aumentare delle risorse che poi devono andare a finanziare questo piano straordinario di investimenti di tutta la Volkswagen. Bene, aziende come Ducati, aziende come Lamborghini, aziende come Bentley, che sono le aziende che stanno andando meglio dentro il gruppo Audi Volkswagen, devono, e questo devo dire è stato un elemento che ha visto un ruolo fondamentale delle delegate e delegati della FIOM dentro Ducati, non devono agire diciamo in una logica di tirare la cinghia e risparmiare, ma rilanciando sia degli investimenti di prodotto che nella produzione di nuove motociclette. Ecco, questo è stato un elemento secondo me fondamentale che ci fa dire che queste aziende qua dentro il gruppo Audi Volkswagen hanno un ruolo fondamentale di sostegno del progetto, diciamo degli investimenti, non con una politica di austerità ma con una politica di investimenti, di rilancio e di aumento delle produzioni e aumento quindi anche delle risorse da destinare agli investimenti. Allora, questa è l'ultima domanda che ti faccio, che io penso che sia l'aspetto innovativo di questo accordo che avete fatto, perché non so se ci sono accordi in Italia che affrontino l'argomento come l'avete affrontato voi. La questione del tema delle transizioni, ok? Come viene affrontato questo tema in contatto Ducati? Esatto, è importante questa cosa, perché sia il tema della transizione ecologica che il tema della transizione digitale trovano degli elementi importanti dentro l'accordo che abbiamo firmato e che, ricordo, è stato votato al 97% dalle lavoratrici e dai lavoratori. Allora, sulla transizione ecologica, alcune questioni. Chiaramente c'è un grande investimento sul prodotto, anche nella prospettiva della moto elettrica, della moto ibrida, delle biciclette elettriche, quindi nuovi prodotti che diciamo vanno verso la logica della transizione ecologica e che devono stare dentro l'innovazione, ma anche un sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori che si devono recare al lavoro. Una cosa della quale andiamo particolarmente fiera è che tutti i lavoratori che faranno l'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto avranno uno sconto pagato dall'azienda del 35%. Ora sappiamo che Ducati è sulla linea rossa del tram di Bologna, quindi noi riteniamo che sia veramente da sposare questa modalità di spostamento, che deve essere ecologicamente sostenibile e che deve avere un diciamo costo a carico dell'azienda a favore delle lavoratrici e lavoratori. Sulla transizione digitale, anche su questo penso abbiamo fatto un lavoro importante, perché siccome adesso ci saranno mezzi e l'intelligenza artificiale permetterà sempre di più di essere pervasiva e quindi di rischiare di avere un controllo a distanza della prestazione lavorativa, bene, noi dentro l'accordo abbiamo messo un principio che nessuno strumento tecnologico che potrà essere utilizzato dentro l'azienda potrà mai essere utilizzato per il controllo della prestazione o per combinare sanzioni disciplinari ai lavoratori. Una cosa che interessante che abbiamo scritto è che abbiamo scritto che recuperiamo l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, quello sul controllo a distanza, così come è stato scritto originariamente nel 1970. Quindi in sostanza nell'accordo Ducati si abolisce il Job Act, cosa che stiamo provando a fare anche con la raccolta della firma, le firme per il referendum. Noi, un attimo, già non c'era sull'articolo 18 in Ducati? Articolo 18, c'era un accordo ancora vigente nel 2015 che abbiamo fatto, che dice sostanzialmente che i licenziamenti non si possono applicare come prevede il Job Act, ma ci deve essere un coinvolgimento prima da parte dell'RSU. Quindi lì abbiamo agito in questo senso. Sul tema del controllo a distanza, chiaramente c'erano alcuni elementi che erano già previsti, ma sappiamo che adesso i nuovi strumenti che stanno avanzando sono sempre più pervasivi e rischiano di mettere i lavoratori in difficoltà. Quindi noi abbiamo anche su questo previsto questo accordo, che forse è premonitore, nel senso che abolisce sostanzialmente il Job Act proprio sul tema del controllo a distanza. E sull'intelligenza artificiale, ho visto che avete scritto qualcosa di importante. Sì, sì, nel senso che l'intelligenza artificiale è un altro degli elementi che chiaramente non può essere fermato, perché sta dentro la logica della evoluzione tecnologica. Oggi il nostro segretario ha detto una cosa inquietante, quella che il 33% di lavoratori verranno, cioè dei posti di lavoro saranno persi nel momento in cui l'intelligenza artificiale sarà L'intelligenza artificiale ha delle possibilità di sviluppo come delle possibilità di macelleria sociale se non viene governata. Noi nell'accordo abbiamo siglato appunto che una commissione tecnica bilaterale composta da RSU e da azienda monitorerà costantemente l'evoluzione e i risvolti che questi strumenti tecnologici innovativi possono avere sul lavoro. Chiaramente noi diciamo, come abbiamo fatto anche in Lamborghini, che gli strumenti tecnologici devono essere uno strumento che riduce l'orario di lavoro, aumenta la possibilità del numero dei lavoratori, ma che non può diventare scusa per licenziamenti. È chiaro che la formazione e l'aggiornamento professionale in questo senso è fondamentale, e quindi tramite queste commissioni tecniche bilaterali, dentro la partecipazione e dentro la contrattazione partecipata che c'è in Ducati, devono essere gli strumenti per governare anche questi nuovi strumenti tecnologici. Grazie Mario. Grazie. Buon lavoro. Avete ascoltato Ghibli, Savannah Funk, stupendo anche quest'altro pezzo. Veramente la musica che stiamo mettendo ultimamente è molto molto ricercata per quelli che amano la musica indipendente, la musica elettronica, la musica d'autore. Ora, avete ascoltato Mario, quello che ci ha spiegato sul contratto Ducati. Per chi si fosse perso l'intervista, si fosse collegato solamente adesso, ricordo che c'è il podcast sulla pagina di Padre Rose di Facebook, anche sulla mia pagina personale, per chi mi conosce. E cosa dire? Lui ha spiegato molto bene l'accordo. È un accordo che prevede tantissimi investimenti, tantissime assunzioni, prevede anche dei soldi, aumento del salario, insomma, avevano preso degli impegni con i lavoratori e sono stati in grado di mantenerlo. Questo è importante, ma la FIOM in questo caso si è veramente concentrata sulla questione degli investimenti. 600 milioni in questi anni di vigenza contrattuale sono tantissimi soldi. Se pensiamo che il gruppo Volkswagen è in crisi, viene spiegato bene nell'intervista, vuol dire che l'investimento fatto a Bologna è un investimento che non si vede normalmente così tutti i giorni. Ha spiegato Mario qual era l'intenzione che si voleva fare nella contrattazione, ma soprattutto io penso che l'aspetto più importante di questo contratto è innovativo, perché si parla di transizione ecologica, si parla in maniera seria e soprattutto si parla di intelligenza artificiale e si parla di contrattazione che non solo difende ma va anche avanti, nel senso che spesso si parla di transizione ecologica e di intelligenza artificiale come riduzione di posti di lavoro, soprattutto di controllo della prestazione. Ecco, il contratto Ducati dimostra che si può parlare di transizione ecologica e dunque di investimenti, e si può parlare anche di assunzione, e soprattutto si può parlare anche di intelligenza artificiale senza penalizzare i lavoratori, senza creare pressione sui lavoratori, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale minimo poi riesce a controllare il lavoratore, lo potrebbe controllare veramente come si fa con un peggio di uno schiavo, e soprattutto lo può sostituire, dunque si potrebbero perdere i posti di lavoro. Infatti nell'intervista lo diciamo che nel direttivo la preoccupazione dei metalmeccanici, del sindacato della FIOM dei metalmeccanici, è altissima di come la tecnologia potrebbe colpire duramente i posti di lavoro. In Ducati non è stato fatto il contrario, e questo ci dimostra che è possibile, che il progresso, la transizione ecologica, l'intelligenza artificiale vanno di pari passo anche a crescita occupazionale, crescita economica, e non per forza significa sacrifici per i lavoratori e perdita di diritti. Ecco, questo è il messaggio che noi volevamo mandare con questa puntata. Ci sentiamo, penso, dopo l'estate, perché non so se faremo un'altra puntata. Adesso vediamo, invitiamo tutti quanti il 2 di agosto in manifestazione, Bologna è antifascista, l'Italia è antifascista, e il 2 agosto la nostra città si tinge a lutto. Non dobbiamo dimenticare, lo dobbiamo fare perché nessuno dimentichi quello che hanno fatto i fascisti in questa città, quello che hanno fatto l'atto odioso di aver massacrato la gente. Sappiamo benissimo chi sono i mandanti, sappiamo benissimo chi sono gli esecutori, sappiamo benissimo dietro chi c'è. Ecco, mi raccomando, il 2 agosto tutti in piazza la mattina, e ci sentiamo dopo l'estate con il pane e le rose. Ciao a tutti. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.